Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Avete presente il concetto di mesta fanciulla? La mesta fanciulla non deve essere necessariamente brutta, può essere anche molto avvenente, come quella che sto osservando in questo momento, seduta quasi di fronte a me. Può essere anche vestita più che elegantemente, come appunto è quella seduta poco distante da me. Può essere anche dotata di oggetti da viaggio, non necessariamente comperati alle bancarelle. Può avere una borsetta bella, carina, non di grande firma, ma naturalmente di fascia medio-alta. Può avere una valigia che non è la classica valigia di plastica che si spacca al terzo giro, si rompono le rotelle, si stacca il manico, insomma il trolley che si azzoppa. Non è il caso della ragazza che sta seduta poco distante da me. L'impressione mesta è che le si legge in faccia l'itinerario squallido e deludente che già non l'appaga, ma molto di più, che già l'ammorba di tristezza ancor prima di lambirlo. La viaggiatrice mesta è colei che sa già che comunque una sorta di ineluttabile destino, una nemesi per colpe mai commesse generazionalmente, probabilmente di cui non è nemmeno responsabile, lei andrà in un posto triste e passerà un periodo triste. Ma proprio in questo periodo in cui tutti i treni si riempono di gente allegra, di gente desiderosa comunque di uscire dalle routine quotidiane, la viaggiatrice mesta con gli occhi mi insegue e non vede l'ora di raccontarmi la sua storia. Io avevo il grande sogno di andare a Ibiza, ho questo sogno dai 15 anni, ma le mie vacanze si tramutano sempre in un... insomma, una sorta di disastro in qualche modo. No, mi interessa perché ti capisco. Anch'io ho fatto sempre soltanto vacanze tristi. Ma spiegami perché. Tu vai in vacanza scegliendo un posto triste, squallido e una situazione mesta per farti del male, per espiare le tue colpe. Qual è il problema? No, tutti gli anni c'è il tentativo di creare la vacanza perfetta spendendo il meno possibile. Solo che poi la situazione vacanze low cost della serie, appunto, tanto andando a casa di qua o a casa di là ce la si fa a fare una vacanza a basso costo, si rivela in realtà un dramma tutti gli anni. Quindi è soltanto per micragna che fai vacanze brutte, non per filosofia di vita. Esatto. Vuoi spendere poco? Ma però c'è tanta gente che spende poco e fa bellissime vacanze. C'è qualcosa ancora che non mi convince al meccanismo. Anche io ti dirò, sono anni che cerco di riuscire a trovare una soluzione a questa cosa, perché mi hanno descritto, ecco, l'anno scorso sono andata in Liguria dove mi avevano descritto questa movida della zona delle Cinque Terre. Sì, vabbè, e ma così via. Dal 1947 c'è la movida delle Cinque Terre, ci fanno i pensionati, le signore in epoca post-menopausa, così a fare le passeggiatine, non è che sia un posto di grande vita. Bravo, e lì io infatti ho semplicemente sbagliato la fascia di età, perché altrimenti avrei potuto divertirmi come una pazza ballando l'Aligalli sulla passeggiata. L'Aligalli lo ballano le signore di una certa età, chi lo balla più l'Aligalli? Esatto, esattamente, infatti il mio sbaglio è stato quello, cioè sostituire Ibiza alle Cinque Terre, ecco. Ma quali erano le tue aspettative? Andavi sola o mal accompagnata? Sono andata sola. E ho detto, vabbè, dai, la Liguria è vicina al Piemonte, quindi andiamo a farci un giretto in Liguria, dai, insomma, il mare è bello. Eri piena di speranze, di la verità. Sì, c'erano delle speranze che sono naufragate in mezzo ai sassi camminando e zoppicando per cercare di uscire dall'acqua. Di solito ci sono quelle belle immagini estive di quella ragazza meravigliosa che esce dalla spiaggia bianca scuotendo i capelli. Io invece, tipo foca monaca, cercavo di riarrampicarmi sulle pietre sul versante ligure. Ti massa, devi mettere quelle ciabattine di plastica orrende, trasparenti. No. Con la fibbietta, i sandaletti da scoglio, anche quelli, esatto, sono bellissimi. Slanciano la caviglia, che è una bellezza. Con quelli rimedi di sicuro. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Però guarda, ti dirò, mi è successa una cosa meravigliosa appunto l'estate scorsa lì in Liguria, perché conosco appunto un ragazzo e io intanto stavo ballando da sola sulla passeggiata. Mi sembra che fosse una canzone, mi sembra fosse Tristezza per favore vai via, neanche farlo apposta. E niente, io invitavo lui a ballare. Ma tu eri in albergo? Prima, aspetta, tu eri ospite in un albergo? Dove stavi? In una pensione? No, era a casa di mia nonna. Quindi diciamo, ammesso e non concesso che nell'impossibile caso che tu questo ragazzo lo rimorchiassi, manco potevi portartelo a casa, c'era la nonna lì. No, la nonna non c'era, cioè era solo a casa di famiglia, ma grazie a Dio i nonni non c'erano. Ma però ti immagini, la casa dei nonni non è certo l'alcova più adatta per una notte d'amore. Pitali sotto i letti, Padre Pio e Madonnine con l'acqua di Lourdes dappertutto. Cioè non credo che sia al massimo, no? No, devo dire che da quella tele mia nonna piaceva molto l'arredamento, quello un po' a stile marino, quindi il corallo, il vaso azzurro, queste cose così. Conchiglie dappertutto, incollate, esatto, sui quadretti, sì. Funi, ancore, queste cose qua. E tanto vimini. Bravo, tanto perfetto, vimini, hai sì, inquadrato esattamente la tanto, situazione. Tanto vimini, sì, perché diciamo è l'arredamento tipico delle seconde case al mare, mobilacci rimediati e oggettistica e paccottaglia da bancarella. Quindi in questo ambiente tu hai trovato un ragazzo, finalmente ti ha notata, che succede? Esatto, mi era notata e io lo invito a ballare eccetera, lui stava sempre lì seduto. Ma l'Ali Galli o l'altro ballo? No, lì appunto era Tristezza per favore. Quindi un lento, un lentissimo era. No, in realtà è tipo samba, un po' più tipo samba quella canzone. Ma lo invito a ballare, lo invito a ballare, lui non si alza. E si alza però un signore sui 75, però ancora un bell'uomo, e mi guarda e mi fa: continua così, sei bellissima, lui non ti merita. Per cui alla fine le mie soddisfazioni le ho avute. È rimediato il vecchietto? Esatto. E che t'ha fatto? No, niente, è venita lì. Poi è andato a provare. Beh, potrei provare l'ebbrezza della dentiera bollente, che ne sai, magari ti piaceva. No, non me la sono sentita. E il ragazzo perché non ti guardava? No, mi guardava, poi dopo è andato tutto bene, solo che non voleva ballare. Ma perché era un infelice, c'aveva dei problemi, qual era il suo fatto? No, secondo me era inibito da questa situazione un po' retro, ecco. Ma anche tu eri retro? Io sì, a quel punto lì, cioè ti cali nella parte, cioè. Quindi sembravi, che ne so, l'inserviente di un convento di monache, non, per quello. Non avevi usato il massimo. Ma ballavi con sandaletti di gomma antiscoglio? No, senza sandaletto di gomma, ma con gonna a ruota, cercando di fare la pin-up, anche se peso 45 kg, per cui insomma la situazione era sempre un po' così. No, no, sono tanti o pochi 45 kg? Sono pochi. Quindi sei slanciata, è il sogno di ogni donna, essere, sì, diciamo leggera. Ma tutto è sempre grazie al sandaletto poi, che ti dà quel tocco d'altezza e quella cosa, quello charme. Perché sei bassina? Sono 1,63, quindi si può. Mi sembra giusto, no? Una Venere in miniatura, perfetta, scusa. E non andavi bene per questo poveretto sfigato che stava lì seduto? No, poi è andato tutto bene, anzi ci siamo addirittura fidanzati, per cui l'amore è nato con l'Ali Galli. Quindi poi dopo l'hai rimediato, la sera stessa ti sei concessa carnalmente? No. Quanto no. Hai aspettato? Ho aspettato almeno altri 2 o 3 Ali Galli. Quindi diciamo sempre nell'arco della serata però? No, nell'arco dei giorni a seguire, perché la passeggiata ovviamente non demordi. Quindi è andata bene, scusa, quindi però ti è andata bene, perché ti lamenti? Sì, hai trovato un fidanzato? No, infatti alla fine della fiera, le vacanze quelle così, alla fine possono avere anche loro il loro riscontro, basta non perdere mai la speranza. Anche perché ci sarà sempre un corrispettivo maschile sfigato che fa vacanze tristi, quindi se i due tristanzuoli che fanno vacanze tristi tristemente si incontrano in una triste location, scatta un triste amore. È triste il vostro amore? No, è molto allegro, ti dirò, anzi. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. E dove andate quest'anno a gioire e a fare la botta di vita? Quest'anno proviamo un'altra casa di famiglia invece in Tunisia. Ah, c'è un'altra vacanza triste? No, beh, magari no, ci sono gli alberghi lì attorno, quindi sì, diciamo che ecco, non è sempre Ibiza o Rimini, però quantomeno... Beh, Tunisia oggi poi costa poco, tutti hanno pure degli attentati, nessuno ci va, quindi esatto. Lo più low cost di così, figurati. Esatto, è proprio lì la parte... E anche lì avete scelto un bel albergo, una situazione romantica? No, sempre casa di famiglia. Come di famiglia? Lui ha una famiglia che ha una casa in Tunisia? Beh, benestante allora. No, ce l'ho io. Ah, di chi è la casa? Di mio papà. È tunisino tuo padre? No, è italiano, però lavora anche all'estero, quindi... Ah, quindi è una seconda casa in Tunisia? Esatto. Ah beh, figurati, c'è la dipendenza di tuo padre, stai benissimo. E questa non ha il Vimini, per cui... Beh, però avrai dei traumi, cioè il tuo Edipo sarà fortemente compromesso dal fatto che troverai... perizoma di tunisine, strumenti di piacere, lenzuola di raso dove tuo padre consuma atti adulterini. Quello ci rimarrei male, però che ti importa? No, da quel lato lì, vista la casta musulmana, non ci sono grossi pericoli. Ma non ti preoccupare, c'è sempre un sottobosco di piaceri illeciti che vengono comunque permessi. Beh, comunque tuo padre vi lascia a casa e tu hai detto: papà, mi lasci casa, vado col mio fidanzato. E lui, esatto, che ti ha detto? Lui sì, mi ha detto: pulisci la piscina. Vabbè, già un bel lavoro per togliere i liquami da una piscina. Avete impegnato già parte della vacanza. No, infatti su 20 giorni che vado giù, 15 li passerò a pulire la piscina. Eh sì, perché va tutta svuotata, di togliere i fanghi, i liquami, poi ridare tutta la vernice o rimettere a posto se ci sono delle piastrelle, pulire il sistema di drenaggio e di desalinizzazione dell'acqua, rimettere tutto dentro, eventuali altri problemi tecnici. Sì, 20 giorni di duro lavoro avrete. E lì la parte migliore sarà quando io invece cercherò di spiegarmi con il tecnico delle piscine locali, per cui che parlerà arabo e francese e io parlo italiano e quattro parole di francese. Ma... E il tuo fidanzato squallido cosa parla? Italiano. Nemmeno uno straccio di lingua straniera? Vabbè. No, beh, parla un po' di inglese, però... Vabbè, allora, via. Tanto c'è poco da capire. Prendere scopa, pulire piscina, non ce la presto. Quindi tu, diciamo, quanti giorni state fuori? 20. Quindi 18 per pulire la piscina, poi riempirete. Non la riempite, se partite non potete nemmeno riempirla. No, l'alternativa è provare invece con i fanghi di alga guam e quindi provare a immergersi nei liquami direttamente. Ah, beh, vi infilate nella fanghiglia della piscina. E la casa com'è? Bella? È accogliente? Sì, no, la casa lì è bella, è molto accogliente, è tutta in stile arabeggiante, quindi quello è bellissimo. Beh, lui ha fatto un bel acchiappo comunque, ha trovato una con la casa in Tunisia, tutto sommato gli è convenuto. Sì, anche se lui voleva quest'anno ritornare in Liguria a provare l'ebbrezza di nuovo di casa di mia nonna, però... Beh, però sei piena di case, vedi, sei una donna che comunque ha un bel patrimonio immobiliare disponibile, quindi sei un bel partito per l'estate. Beh sì, diciamo che poi appunto purtroppo ecco le località turistiche da quella tri la mia famiglia non aveva voglia di... Hai finito i parenti vita. Con seconde case? Sì. Non c'è nient'altro a disposizione? No. Allora devi pregare, adesso l'amore ha una sua svolta molto difficile. Un anno l'hai svoltato, perché mi sembra ci sei messa l'anno scorso e quest'anno è la prova del 9, la seconda vacanza assieme. Eh sì. Certo, l'amore sarà sottoposto a una dura disciplina, però... Una dura disciplina. Ma durante l'anno avete fatto degli weekend squallide, delle uscitine squallide, delle gitarelle squallide o niente? Sì, no, abbiamo fatto delle gitarelle... Squallide. Ah no, dai, non più di tanto, no. Descrivimene una a caso, a Pasqua che avete fatto? Allora, a Pasqua siamo andati a una grigliata a base di abbacchio a casa di amici. Squallidissimo, tristissimo, perché avete mangiato male, gli amici non sono stati capaci, il povero abbacchietto. No, abbiamo mangiato bene perché io faccio il cuoco e hai cucinato pure? Il cuochista e quindi sì, ho cucinato. Vabbè, spezza che pacchi, questi hanno chiamiamo quei due, lei cucina e lui fa il fuoco, la cosa più faticosa, accendere, fare la brace, scottarsi le mani, tu cucinavi, loro lì spaparanzati hanno mai, beh, avete fatto diciamo il catering ai vostri amici, tristissimo. Esatto, per cui vedi che il fatto dello squallido alla fine vuoi o non vuoi ritorna in qualche modo. Beh, certo, io ti sto semplicemente provocando, per farti capire che sono delle costanti nell'esistenza, dalle quali non ci si libera mai, capito? Ma perché riconosco in te una sorella, per me è sempre stato uguale nella vita. Noi avremo anche squalli dalla cerimonia del funerale, sarà tristissima. Bara di cartone, nessuno, un pretaccio ubriaco, becchini in sciopero, ci lasceranno lì, così sarà. Dimmi un altro episodio, Natale, un Natale come l'avete passato, Natale Capodanno? Natale io vivendo fuori porta, cioè vivendo fuori da Biella, vivendo io a Roma, sono ritornata a casa e poi sono ritornata giù per Capodanno invece a Roma, abbiamo fatto Capodanno a Roma, sempre a casa di amici e ho di nuovo cucinato. Avete cucinato, un bel capodannino a casa d'amici? Sì. E dopo che avete fatto, diciamo, mentre tutti facevano, guardavano Carlo Conti che faceva il conto alla rovescia, vi siete detti una promessa d'amore per la vita, speriamo di avere tanti capodanni, no? No, veramente eravamo al secondo, per cui siamo anche un po' straniti che la mezzanotte fosse arrivata così in fretta e non potessimo mangiare secondo prima della mezzanotte. E si hanno anticipato, hanno anche licenziato un dirigente Rai, c'è stato un anticipo. E vabbè, pazienza. Vabbè, che ti devo dire, in bocca al lupo, portati diciamo dei bei guanti, perché le manine si rovineranno molto a grattare la sugna dalla piscina. Prega che non sia l'ultimo squallido momento vacanziero con il tuo amore, avrete davanti tutta una vita, i vostri bambini vi rimpiangeranno il fatto che li porterete sempre in posti tristissimi e la vita tristemente come si andrà avanti per voi, e spero che questo viaggio invece abbia un esito felice. Ti saluto, ciao. Grazie, ciao. Sono mesi che non incontro più il viaggiatore misterioso, il genovese dai mille mestieri, dai mille itinerari, dalle mille avventure, colui che le persone che ci hanno ascoltato più volte hanno messo con le spalle al muro chiedendo giustizia rispetto ai suoi racconti, che secondo i più sospettosi, i più cinici, i più invadenti, i più tristi dei nostri ascoltatori non avevano poi un nesso logico accettabile. Potrebbe essere, ma non qui non lo dico e qui lo nego naturalmente, è che nei racconti del nostro viaggiatore, del nostro Marco Polo, del nostro singolare ospite, ci sia stata una forte dose di innesto fantasioso in una realtà di vita. Ma perché tartassarlo così? Perché pormi ancora un elenco di domande che devo a lui fare? Perché impormi di andarlo a inseguire nei suoi treni che sono sempre periferici, laterali, sempre una deriva rispetto alle vie principali, e presentarmi da lui come l'esattore delle tasse con la lista delle domande e chiedergli quello che voi volete da lui sapere? Mi risponde con la voce rotta dalla tristezza. Sembra quasi che nel suo tono ci sia il dire: ma perché non mi credete? Perché pensate che la verità sia questa sorta di suggello intangibile e intoccabile? Cosa importa a voi se veramente l'ho vissuto o veramente l'ho immaginato e sognato? Eccomi, caro. Buongiorno, dottor Nicoletti. La gente non si fa mai i fatti propri. Veramente, continuano incessanti le richieste di specifica su quanto lei ci ha detto via nel tempo. Quindi passo all'elencazione di questa sorta di interrogatorio che fa male più a me che a lei probabilmente farle queste domande, però la gente vuol sapere. Ad esempio, dice: ha viaggiato molto negli anni 70. Qual posto più diverso dell'Occidente, il più incontaminato in cui è stato? E quando stava nei posti incontaminati, che mangiava, come si vestiva, insomma, come si arrangiava nei posti impossibili? Qual è stato il posto impossibile dove è stato? Ma nel mondo posti impossibili non ce n'è, sono stati posti dove c'era dei disagi chiaramente, ma ho trovato molte difficoltà in Mauritania, ecco, a Sudan, specialmente in Africa. Ecco, vediamo, un viaggiatore medio cosa si è trovato di fronte di difficile rispetto alle sue abitudini, così facciamo capire meglio alla gente. È difficile il fatto che non, insomma, già procurarsi l'alimentazione corretta, trovare dell'acqua pulita, insomma, ci posti che sono un po' infernali sotto questo aspetto. E che si mangiava? Lei cosa mangiava? Ho mangiato tante radici, tanta diciamo frutta secca o frutta conservata. E le radici andavano, cioè se le prendeva a mano lei sradicandole o le vendevano? No, se le vendevano in tutti i mercati loro. E di che sa la radice? Schifosa. Questa, la di Amaro. Ah, e per dormire come si arrangiava? Ma a dormire non ho mai avuto problemi, perché ho sempre trovato, stato ospite, quindi. quindi non andava su posti pidocchiosi, brutti, sporchi? No. Solo una volta in Indonesia mi sono trovato a Bimaga, un posto disperso nelle isole d'oro, che ho dovuto dormire in una specie di capanna sarcofago, insomma. E com'era? Su un tavolaccio sembrava una mezza prigione. Con animali, scarafaggi, serpenti? No, non c'era, sì, ci sarà stato tutto, ma lì dentro non c'era niente. Cos'è, un albergo? Cos'era? No, erano, loro chiamano l'Osmo, sono praticamente delle capanne di rifugio. Delle locande, nemmeno, no, delle capannacce. Nemmeno, sono piccoli. E si paga per andarci? Sì, sì, si paga, se qualcosa vogliono, qualche rupia la vogliono sempre. E in bagno dove si andava quando uno dormiva in questo posto? Natura libera. Ah, uno andava in giro, faceva tutto fuori e non c'era acqua, non si lavava, niente? No, c'era la fontana, più o meno era tutto un disagio. Quindi uno va per fratte a fare i bisogni, si era sciacquata la fontana e dorme sul tavolaccio. C'è, sì, sul tavolaccio, si danno una coperta quando va bene. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Vogliono sapere anche qual è la trasferta più rischiosa che ha fatto, quando ha visto veramente la morte in faccia. Se è successo. No, arrivare a quel livello lì non ne ho mai fatte, cioè c'avevo sempre dove mi sono trovato veramente a disagio è stato quando la zona della Patagonia, ma sono capitato in una tempesta che non finiva più, come una volta sono in Indonesia, ho preso una pioggia tropicale che era una cosa spaventosa, no? Niente di particolare, ecco. Saltello tra le domande le più strane, vogliono sapere se è stato mai tradito, se mai da chi, non so perché interessa, se lei è mai stato mai tradito, amici, non... penso, colleghi, non lo so, più di una volta sono stato tradito, cioè sia a livello maschile che femminile, ma non di cose sentimentali, nel senso di lavoro, della vita, cos'è? Sì, da amici sono stato tradito, solo che l'ho saputo molto dopo. In che senso tradito? Vogliono sapere. Ma tradito, ad esempio un mio amico le avevo dato delle polizze di gioielli impegnati e se l'ha dati a disimpegnare senza dirmi niente. E se l'è presi? E se l'è presi. E ma dopo come si è giustificato? Si è giustificato quando l'ho saputo, era già morto. Ah beh, quindi ha portato anche male tradire. E altre situazioni? Sì. Ma non me ne ricordo. Vabbè, il tradimento si dimentica, uno c'ha la capacità di rimozione. Sì, invece, qual è il posto più lussuoso? Ovviamente lo schiaffo alla miseria in cui lei ha vissuto da nababbo. Che ho visto vivere da nababbo è qualche sultanato in Indonesia, sulla baia sicuro, dove uno sfarzo di ricchezza incredibile, il sultano. Ma la popolazione non si ribella perché l'ho detto, comanda sulla vita e la morte dei suoi 10-12 milioni di sudditi. Qual era il colpo d'occhio che più dava proprio l'idea dell'opulenza, dello sfarzo in questi posti? Non so, una piscina di madreperla, ecco. Di madreperla vera la piscina? Vera. Levato i rubinetti d'oro che ne avevo già visto da tutte le parti, ma poi non so, 25 Rolls Royce in un garage, che poi cosa se ne facesse, non lo so, perché lì le strade sono quello che sono. E perché c'hanno i sultani sempre l'idea che la... cioè vanno vestiti schifosamente magari, o sembrano con le ciabatte, però c'hanno macchine favolose e orologi favolosi, orologi e macchine, la cosa che spendono. Sì, orologi, questo qui c'erano degli Audemars Piguet che avete visto, così come i cioccolatini, e niente, una mania, un senso, un emblema di potere, di strapotere. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Vogliono sapere anche gli uomini potenti che ha conosciuto, l'uomo più potente con cui ha avuto rapporti personali. Ne ho conosciuti tanti, io penso che uno degli uomini più potenti che ho conosciuto forse è Andreotti, ecco. Ha avuto buoni rapporti col presidente? Ma io ero molto amico di Cresci, che era il suo collaboratore diretto, no? Uh-huh. Con la DC. Sì, devo dire che è un personaggio. La mattina io alle 6 rientravo e lui alle 6, siccome abitavo lì a Roma, dove ci ho già detto, la Paidea c'è la clinica, no? E lui abitava dalle parti di Corso Vittorio, mi sembra, o sbaglio? Sì, vabbè, ma con la scorta veniva sempre lì, perché poi andava a messa e veniva prima a fare una passeggiata al cagnolino della madre. E lui portava il cagnolino a spasso, Andreotti? Sì, sì, io abitavo in Viale Caporena. E a un certo momento mi sono arrivato, mi ha preso per il braccetto, mi ha parlato, poi mi ha detto: venga con me che andiamo a messa. Ah, perché vi conoscevate? Lei. Vi conoscevate? Sì, sì, lo vedevo quasi sempre. È stata una conoscenza così. Cioè, siete messi inginocchiati insieme, pregavate insieme? Niente, l'ha portato in chiesa e poi mi ha salutato. E ma quando l'ha visto pregare, era sincero, sembrava? No, solo per sapere, tutto chiaro, Belzebù. Perché c'aveva la sua panca personale, quindi io ero dietro. Aveva una panca in chiesa riservata, ci stava soltanto lui su quella panca? No, non soltanto lui, sa quando si fa quelle donazioni, dovete. E perché le dà l'impressione che proprio Andreotti fosse il più potente di quelli che ha conosciuto? Perché parlava poco, ma si vedeva che aveva un potere in mano. Lui l'ha detto, il potere logora chi non ce l'ha. Era potente, io penso che era, certamente oggi come oggi direi Putin, direi altra gente, ma non l'ho mai conosciuta, quindi è il corrispondente più o meno. Poi oltre Andreotti qualcun altro? Ho conosciuto poi il presidente Cossiga. Ah sì, questo l'aveva detto, sì. Grosso chiacchierone. Era più alla mano, però più facile incontrarlo, parlare. Sì, però ho fatto tanti di quei servizi segreti. Ma era un suo dipendente, quindi? Lei era dipendente di Cossiga praticamente? Ma per 2 anni sì, praticamente è stato dipendente. Proprio diretto, era al servizio del presidente? Sì, lo seguivo, no, solo in Italia, all'estero no, all'estero doveva un'altra scuola. E qual era il suo ruolo, la sua mansione? Niente, dovevamo assistere. La sicurezza era sua? La sicurezza in generale, davamo prima, dopo, che se ne. Ah, la bonifica di dove andava, queste cose qua? Sì, sì. E lei questo ha esperienza, cioè è anche il suo mestiere fare? Non era il mio mestiere, ma l'ho imparato. E se io volessi chiederle come cortesia, mi accompagna per una settimana, ecco, cosa farebbe? Mi precede, entra prima di me in un posto dove vado io? Qual è la mansione? Ma è la stessa cosa che fanno i questori, i prefetti, non so, quando arriva una squadra di calcio, monitorato l'albergo, il percorso dell'aeroporto, il campo d'allenamento, se arrivano 2 giorni prima, un giorno prima. Si guarda tutto con attenzione. Si controlla tutto, il personale più o meno. Insomma, se ci sono microspie e cose del genere, come ci vuole l'apparecchiatura, penso. No? Se c'è? Microspie, apparecchi, cose di sorveglianza. No. Ma no, cioè io non ho mai trovato una, quindi fa parte dell'aspetto. Sì, ci sono state, però no, ormai con l'apparecchiatura elettronica che ci sono si sente qualunque interferenza. Poi c'è una domanda proprio specifica da ascoltatore della radio del Sole 24 Ore. Voglio sapere, quando lei faceva l'imprenditore, avviava un'azienda in questi posti lontani così, come metteva su l'apparato, di chi si fidava, aveva delle agenzie, persone di sua fiducia, come metteva su un'azienda? Prima di tutto passavo dalla camera di commercio e sapere le regole contro le regole, e poi intestavo tutto a gente del posto. cioè lei diciamo, creava l'impresa, ma creavo l'impresa, ma io me ne stavo fuori, capito? E questo perché? Soprattutto per essere citato, tranquillità, e poi insomma, siccome l'investimento dei capitali non è che ho messo delle cifre enormi, era cose insomma abbastanza controllabili, anche se avessi preso, diciamo, come dicono a Roma, un pacco, non mi sarei... Ah, quindi diciamo era un rischio misurato. Sì, faceva impresa, però cercando sempre... Il settore più strano in cui sei mosso? L'ho detto, quello lì, la cosa che mi ha dato più soddisfazione sono stata quella dei bottoni. Ho detto, ah, è bella idea, ce lo ricordo un attimo, come si costruivano i bottoni, si era inventato il commercio dei bottoni. Non esistevano i bottoni. Esattamente, il posto era Malindi. Vabbè, nota località dove beccarono un noto politico italiano. Sì, appunto. Con la marijuana. a Malindi cosa? Come ce lo ricordo un attimo? Il tempo passa anche per me. Com'era il commercio dei bottoni? Il commercio dei bottoni era che all'epoca con l'avorio, con la madreperla, con le conchiglie, con l'ebano, insomma con tutto quello materiale. Bottoni diciamo di qualità, non di qualità, sì, facevo per l'Otto Couture e li mandavo da Valentino a Ferrero, andavo soprattutto. E la manodopera era keniota? Era tutta indiana. Perché Mombasa è una città completamente indiana. Ecco, l'ultima cosa che vogliono sapere è molto personale. Di tutte le usanze che ha conosciuto all'estero, quale è diventata la sua? Non so, un oggetto, un rituale, un'abitudine, qualcosa che... Usanze? Sì, usanze, riti quotidiani, qualcosa che continua a fare adesso che magari lo faceva in posti strani e lontani. È una cosa che mi sono trascinato dietro dall'Asia è che faccio sempre... una ciotolina con le spezie, cose, dei profumi, gli incensi, cose, e l'accendo spesso, senza nessun motivo, magari in mezzo alla tavola come deodorante, però lo faccio spesso. Tipo palo santo, incensi, sì, cose? Sì, quella cosa. Ah, perfetto, si aromatizza a casa. Vabbè, io spero di aver soddisfatto la curiosità morbosa di chi ci ascolta. Comunque ci sentiamo al prossimo giro, io intanto scendo, alla prossima. Arrivederci. Il treno va. L'audiolettera che mi è giunta e di cui oggi vi darò esatta testimonianza descrive e rivela quello che sia l'importanza della logistica nelle storie d'amore. Insomma, l'amore, la relazione, la storia per la vita o la storia fuggevole è tutta racchiusa in un perimetro e in una cubatura. Ha tutto dei tramezzi, delle stanze, degli angoli, delle porte da aprire e da chiudere, delle finestre che affacciano o non affacciano, delle serrande da alzare e da abbassare, dell'aria condizionata e del riscaldamento da graduare secondo le proprie esigenze e il proprio estro, dei mobili da arredare, dei tappeti sul camminare, dei pavimenti da scegliere. Insomma, è fondamentale la cuccia, l'alloggiamento, la location. E chi decide su quale sia il più acconcio e il migliore luogo per vivere una vita assieme, è qui il problema. È frutto di una penosa e lunghissima negoziazione. Gli amori tracollano sull'idea di un appartamento. Gli amori sono come una riunione condominiale in cui i problemi tecnici e materiali sovrastano quelle che sono le regole di buon vicinato, di convivenza, di amicizia, di affetto e di amore. Caro Nicoletti, anch'io mi accodo a quelli che hanno deciso di vuotare il sacco. Ma la questione che le pongo, e che ovviamente mi tocca personalmente, non è di cuore, ma di logistica, o forse, irrimediabilmente, di cuore e di logistica insieme. Ora le spiego. Ho 44 anni e non mi sono mai sposato. A dire il vero, non ho mai nemmeno convissuto pienamente. Quando è capitato è stato per brevi periodi, mai più di un mese. No, se sta pensando a un conquistatore collezionista di femmine, si sbaglia. Semplicemente coabitare con una donna sotto lo stesso tetto non mi interessa e francamente penso di non esserci nemmeno portato. L'ultima storia che sto vivendo da ormai 3 anni mi pone però una domanda a cui devo dare necessariamente una risposta ed è per me una scelta che devo ponderare bene. La mia fidanzata, diciamo così, ha comprato casa 6 mesi fa, un appartamento qui a Milano. Io vivevo con 2 affittuari coinquilini in un appartamento che avevo in cogestione da anni. Prima che la mia compagna comprasse casa, viveva in affitto e io mi dividevo tra casa sua e casa mia. Ovviamente erano più le notti in cui io andavo in trasferta da lei che il contrario, vivendo io con altri coinquilini. Lavorando entrambi, ci vedevamo essenzialmente la sera e nemmeno tutti i giorni. Lei diceva che le stava bene così, che con me si sentiva un gatto selvatico e che non aveva desideri di convivenza. Poi le capita la classica occasione e di fatto compra questo appartamentino. Nel giro di un mese si trasferisce. Nel frattempo io comincio a lavorare a Bologna. In pratica da 6 mesi la situazione è questa. Lei vive a Milano, a casa sua, di proprietà. Io dormo alcuni giorni a Bologna, anche se non tutte le settimane, e quando sono a Milano dormo da lei. Ma di giorno vado nella mia vecchia casa in coabitazione, dove utilizzo la mia vecchia stanza in affitto, come uno studio. Quindi la sera, se sono a Milano, ceno e dormo da lei, ma la mattina me ne vado nella mia vecchia abitazione. Io onestamente mi riconosco totalmente nell'esperienza del nostro ascoltatore che ci scrive. È vero, non esiste casa, nido d'amore, luogo in cui si sta con la persona amata, con la persona fidanzata, con la persona sposata, con la persona con cui si divide la vita, quanto il piacere, la frenesia, l'estrema lussura di aprire una porta e sapere che sei stato tu l'ultimo a richiuderla e nel frattempo che tu non eri in quel luogo, racchiuso da quelle mura e da quella porta, nessuno ha messo il naso nelle cose tu lasciato all'interno di quella stanza. Questo equivale allo studio, allo studiolo, al pensatoio, al luogo di lavoro, alla stanza d'ufficio, al luogo che ogni maschio ha diritto di avere, dove chiude la porta e sa che nessuno entrerà, nemmeno qualcuno a fare le pulizie prima che lui riapra quella porta. E questo è fondamentale per la vita e per la sopravvivenza di un rapporto d'amore, perché se l'uomo è appagato, ha la sua cuccia, il suo sacrario, il suo sancta sanctorum, sarà molto più disponibile poi a dividere gli spazi comuni con altre persone con le quali può magari vivere, innamorarsi, fare l'amore, fare figli o avere semplicemente una storia di profonda affettuosa amicizia. Ora, non ci trovo nulla di strano che questa stabilizzazione del tuo rapporto sentimentale proceda secondo queste modalità. Tu dividi lo spazio dell'affetto, dell'amore, della relazione con questa donna a casa di questa donna. Se la sarà fatta, costruita, arredata a suo piacere. Quindi tu sei ospite e il momento in cui sei ospite la fai contenta perché accetti di convivere in un luogo pensato da lei, immaginato da lei, costruito sul suo piacere e non sul tuo. Per necessità di lavoro devi andare in un'altra città e questo nessuno può togliertelo. Un'infinità di mariti che vivono in ciabatte a vita imbullonati nella casa con la moglie e con i figli comunque possono avere dei giorni in cui devono stare fuori. Hai il tuo studio dove naturalmente ritrovi la felicità della solitudine, della concentrazione. Cosa ti manca? A te nulla, ma lei manca molto. Se il quadro le è chiaro, veniamo al problema. Subillata, secondo me, dalle sue amiche, la mia fidanzata ha cominciato a dirmi: ma perché la mattina quando ti svegli da me senti il bisogno di andartene nella tua vecchia stanza? Ok, lì hai la scrivania, libri, computer, ma qui, volendo, possiamo ricavare uno spazio dal salottino e ci ricaviamo uno studiolo. A me questa soluzione mi mette tristezza. Mi fa pensare a quel terribile mesto seminterrato che, in amici miei, Tognazzi, suddivide con le tendine per creare ambienti inesistenti. Mi sento soffocare solo all'idea. Una mia amica mi ha dato il suo parere da donna sentenziando così: ma scusa, guarda la faccenda dal punto di vista della tua fidanzata. Tu ti presenti la sera a casa sua, mangi, fai sesso, dormi e poi te ne vai nel tuo vecchio appartamento oppure sparisci per 3 giorni a Bologna. Come pensi che le possa andare bene? Ecco, perché non dovrebbe starle bene? E ora, come temevo, la sento infastidita e irritata. Anche quando non ne parliamo, sento il suo nervosismo. Sento che è vicino all'out-out. O da lei, o via da lei. Bene, come faccio a non perdere lei, ma nemmeno la mia libertà di movimento? Caro, tu sai la risposta, ma te la faccio ascoltare dalla mia voce, così ti ribadirai ciò che già intuisci. In realtà non c'è nessun rispetto per il tuo spazio. In realtà dovesse essere racchiuso la tua possibilità di avere le tue cose, i tuoi punti di riferimento, la tua vita, perché la nostra vita sono i nostri foglietti che lasciamo su un tavolo e vorremmo trovare esattamente nello stesso posto quando ci risediamo a quel tavolo. Sono il tuo computer che possiamo lasciare acceso, spento, possiamo non preoccuparci dove siamo andati, cosa abbiamo navigato, cosa ci abbiamo scritto, che foto ci abbiamo messo, perché nessuno ci metterà il naso se non noi la volta in cui ci risediamo a quel tavolo. Un posto che noi possiamo decidere se deve essere caldo, freddo, se deve essere pulito o sporco, se deve essere illuminato o buio, in cui è tutto nostro, in cui corrisponde ogni nostra capacità di vivere al massimo le nostre propaggini sensoriali, insomma è casa nostra. Ci basta uno sgabuzzino, ci basta una stanza, o amici che hanno fatto casa loro in un garage, ma mai con la tendina, mai con la persona che ti guarda, ti scuta, ti ascolta, che senti e che ti dice ogni istante: caro, hai finito? Andiamo a letto. Caro, ma è tanto tempo che stai seduto, non è ora che smetti, ma vuoi spegnere quel computer, vuoi lasciare quei fogli, ma andiamo a farci un giro, una passeggiata? No, questo è inconcepibile, è impensabile. Questo però è naturalmente l'inizio di una possessione. Questa donna, che normalmente ormai è la cuccia, deve avere l'uomo dentro, deve possederti, e possederti non le basta una notte d'amore in cui ti dedicherai al massimo alla sua soddisfazione per essere tutto per lei. Non le basterà che tu stai la mattina a far colazione con lei, non le basterà, perché lei non vorrà che anche quando tu esci qualunque brandello della tua esistenza emotiva sia chiuso dentro quella casa e sotto il suo controllo. Le sfugge qualcosa di te, qualcosa indispensabile al controllo totale, le sfugge il momento del piacere della solitudine, e questo è un oggetto non negoziabile. Se tu non vuoi rinunciare a questa donna, dovrai rinunciare alla tua solitudine, al piacere di aprire una porta, anche se in uno squallido appartamento che dividi con amici, e saper che lì dentro sei soltanto tu il padrone incontrastato. Quando tornerai, se andrai a vivere con lei, non sarai mai padrone di nulla se non di quello che dividerai con questa donna. Fai una scelta. Avete ascoltato Il treno va, conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti, a cura di Fabrizio Intonti, sound designer Luigi Speciale.